Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Ilva, scontro tra governo ed enti locali dopo la decisione di questi ultimi di ricorrere al TAR. Calenda congela il negoziato nell'attesa. La Corea lancia un nuovo missile, dice siamo una potenza nucleare. Trump, ce ne occuperemo. Ancora un record per Bitcoin che sfonda quota $10,000, più 10% in sole 24 ore. Alfa Romeo torna alle corse di Formula 1, scriverà un nuovo capitolo nella leggenda dello sport, dice Marchionne. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook di Radio 24 e quella di Effetto Giorno, dalle quali andiamo in diretta video quotidianamente, se volete potete commentare anche là. Dall'altra parte del vetro, Paolo Corleone in regia, Laura Faggini in assistenza e in redazione, iniziamo dall'Ilva. Pugno duro del ministro Calenda dopo la mossa del governatore della Puglia Michele Migliano, e cioè l'impugnativa della regione Puglia e del comune di Taranto del decreto con cui a fine settembre il governo aveva modificato il piano ambientale dell'Ilva. Una mossa con il risultato di lasciare il sito di Taranto appeso alla decisione del TAR. Di qui lo stop che arriva durante l'assemblea della CGIL sull'acciaio con le parole del ministro dello sviluppo Carlo Calenda. Ho deciso, ha detto, che congeleremo il negoziato sull'Ilva aspettando la decisione. Duro giudizio del ministro, sono inutili i tavoli finché non è chiara la situazione. Se il TAR di Lecce accoglie l'impugnativa, l'amministrazione straordinaria dovrà procedere allo spegnimento dell'Ilva. Per Calenda, quella del presidente della regione Puglia è una battaglia ideologica fatta sulle spalle dei lavoratori e dell'ambiente. Emiliano, ha aggiunto il ministro, sta costruendo una campagna elettorale dicendo cose che non esistono. Una mossa all'impugnativa che scontenta tutti, governo e anche i sindacati. Per il segretario confederale della CGIL Maurizio Landini, quella di Emiliano è una scelta sbagliata. Anche per Francesca Re David, segretaria generale della FIOM, non è un fatto positivo in una fase così delicata della trattativa. Sulla stessa linea anche FIMCISL. La scelta, nota il segretario generale della FIMCISL, Marco Bentivogli, è da irresponsabili. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E di Ilva e di Taranto torneremo a parlare più avanti nel nostro Giro d'Italia. Sentiremo le voci tanto del sindaco di Taranto quanto del ministro dell'ambiente Galletti. Intanto passiamo ad altro argomento e andiamo all'estero. Andiamo alle nuove tensioni in arrivo dalla Corea. Che farà Donald Trump? Che farà la Cina? Sono queste le domande che tutti si pongono ora che anche Washington e per inciso anche l'Europa sono nel mirino dei missili intercontinentali nordcoreani. Lo ha dimostrato l'ultimo test missilistico effettuato da Pyongyang, celebrato dai media del regime come l'affermazione solenne delle capacità di colpire l'intero territorio continentale americano. Mentre lo stesso leader Kim Jong-un ha annunciato che il programma nucleare è stato completato. Certo, le borse internazionali non si sono spaventate e quindi mostrano di non credere a un conflitto, almeno nell'immediato. Ma il duello, anche personale, tra Trump e Kim non lascia presagire niente di buono. Kim sembra aver oltrepassato la linea rossa che Trump aveva tracciato. Di sicuro, ora i rapporti tra Pechino e Washington andranno incontro a un test delicatissimo. Nel recente viaggio in Asia, il presidente americano aveva enfatizzato di aver ottenuto assicurazioni da Xi Jinping su più serie sanzioni e pressioni cinesi, ma è anche vero che il diplomatico che la Cina aveva inviato nei giorni scorsi in Corea del Nord è tornato 4 giorni fa senza nemmeno aver incontrato Kim. Una dimostrazione probabilmente dei limiti dell'influenza cinese sulle decisioni di un regime che evidentemente ritiene che il continuo sviluppo dei suoi programmi missilistici e nucleari sia la sola vera assicurazione per la propria sopravvivenza. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Ritorniamo all'Italia, il Parlamento è ancora al lavoro sulla manovra. Completato l'esame della Commissione Bilancio del Senato, chiuso dalla maratona notturna, la manovra approda in aula a Palazzo Madama. Fra le modifiche dell'ultima ora votata in Commissione c'è il via libera alla proroga per un anno, sia tutto il 2018, delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza a fine 2017. In ballo ci sono circa 4.000 vincitori e 150.000 idonei a selezioni pubbliche. Disco verde anche per lo sblocco delle assunzioni dei precari della ricerca. Istituito poi un fondo da 50 milioni in 2 anni per i risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto imposto dalla crisi delle quattro banche e liquidazione delle due banche venete. Il risarcimento è però subordinato al riconoscimento del danno con sentenza passata in giudicato o davanti all'arbitro. Via libera anche al bonus bebè, che diventa strutturale ma in versione alleggerita. Nel 2018 l'assegno per i nuovi nati sarà sempre di 80 euro al mese, mentre dal 2019 sarà di 40 euro al mese. La soglia ISE per accedere al bonus resta a 25.000 euro. In Senato, dopo la discussione generale sulla legge di bilancio, è attesa la richiesta di fiducia da parte del governo, prevista per domani mattina, e la votazione nel pomeriggio. Il provvedimento passerà poi all'esame della Camera, dove oggi il governo ha posto la fiducia sul decreto fiscale collegato alla manovra. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Intanto il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è arrivato ad Abidjan in Costa d'Avorio, dove oggi pomeriggio prenderà parte al vertice tra Unione Europea e Unione Africana. Un nuovo patto politico tra Unione Europea e Africa, un piano Marshall da circa 40 miliardi di euro che potrebbe aiutare le nuove generazioni a restare nel continente africano e arginare in questo modo anche il flusso dei migranti dall'Africa all'Europa. Un piano che però non prevede, ad esempio, il taglio dei dazi all'agricoltura africana, che di fatto impediscono all'Africa di svilupparsi. Un piano inoltre che suona come un ottimo proposito, a patto che non si trasformi nell'ennesima pioggia di aiuti che non arrivano alla popolazione, ma si perdono in corruzione e burocrazia. Il piano Marshall per l'Africa sarà al centro del vertice tra Unione Europea e Unione Africana di oggi in Costa d'Avorio ad Abidjan, dove oltre alla cancelliera Merkel e al premier italiano Gentiloni ci sarà il presidente francese Macron, il quale ieri ha fatto tappa in Burkina Faso, annunciando la chiusura dei campi di detenzione in Libia. Macron è sembrato appropriarsi di un tema che finora è stato gestito in prima linea dall'Italia, che appoggia il mediatore ONU al-Sarraj, mentre la Francia legittima le ambizioni del generale Haftar, che dall'ONU e dalla comunità internazionale non è riconosciuto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con un rialzo del 10% in 24 ore, Bitcoin supera per la prima volta la soglia di $10.000, nuovo massimo a quota 10.831. Sentiamo. Con un valore cresciuto in meno di un anno da 1.000 a oltre $10.000, il Bitcoin, moneta virtuale nata nel 2008, fa gola, ma anche paura. Stiamo cercando di capire se ci sono ripercussioni sull'economia reale, perché effettivamente ha dei lati oscuri. Le parole della commissaria europea Vestager per ora non ci preoccupa, le fa eco Powell, nominato alla guida della Fed, e mentre JP Morgan parla di truffa e il Chicago Mercantile Exchange, mercato americano dei derivati, annuncia il lancio di un future, le aziende si attrezzano. Da Microsoft a Starbucks a Expedia sono molti i big che effettuano transazioni nella criptovaluta. Anche realtà come il comune di Chiasso, che da gennaio darà la possibilità di pagare le tasse in bitcoin, e la casa d'aste torinese Sant'Agostino, ci spiega la proprietaria Vanessa Carioggia. Nella scorsa asta, in ottobre, abbiamo avuto circa richieste per il 7% sul fatturato totale, quindi pagamento in bitcoin circa sul 7%, e abbiamo avuto richieste dall'Europa, anche qualche italiano. Intanto le banche si stanno alleando per lanciare la propria piattaforma blockchain. L'obiettivo? Trasferire denaro senza intermediari. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Apre a Milano il più grande centro commerciale urbano d'Italia, si tratta di City Life Shopping District. Ne sta seguendo la presentazione la nostra Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa, buongiorno. Buongiorno Simone, un saluto agli ascoltatori. 32.000 metri quadrati per più di 100 negozi, apre appunto le porte domani City Life Shopping District, centro commerciale urbano più grande d'Italia, il primato l'hai già ricordato tu, che porta la firma prestigiosa dello studio di architettura Zadid. 2 miliardi di euro l'investimento complessivo, quello del centro non è dato saperlo, parliamo dunque dell'intera area che comprende anche la parte residenziale, commerciale e gli uffici, con le tre torri grattacieli delle Archistari Isozaki, Hadid e Libeskind, quest'ultima ancora da innalzare, e il secondo parco pubblico per estensione di Milano. bacino d'utenza 700.000 persone, puntiamo ai 7 milioni di presenze all'anno, ci ha detto l'amministratore delegato di City Life Armando Borghi. Non solo negozi, anche un cinema multisala da 1200 posti, un poliambulatorio medico. Tra i negozi segnaliamo il primo flagship europeo del colosso cinese della telefonia Huawei, 800 nuovi posti di lavoro. Domani, dicevamo, l'inaugurazione per il pubblico con un grande show, uno spettacolo di luci visibile in tutta Milano. Oggi l'anteprima stampa permettimi Simone una notazione: oltre 100 giornalisti accreditati, tra cui anche alcune testate internazionali, un giro stampa degno del Louvre, consentitemi, lascio poi le riflessioni a chi ci ascolta. Questo per dire, abbiamo visto altre volte code chilometriche per l'inaugurazione di centri commerciali con un grande afflusso di pubblico, facile prevederlo anche in questa occasione nei prossimi giorni. A te Simone. E grazie a Maria Luisa Pezzali per questo racconto, appunto, da questo nuovo centro commerciale che apre dentro Milano. Alfa Romeo torna alla Formula 1. Sauber e Alfa si uniscono e sui circuiti di Formula 1 del prossimo anno vedremo correre una nuova scuderia. Si chiamerà Alfa Romeo Sauber F1 Team, con le motori forniti dalla Ferrari. Il biscione torna così in Formula 1 dopo 32 anni e Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler, dice che Alfa Romeo è determinata a scrivere un nuovo capitolo della sua unica e leggendaria storia sportiva. Una novità che rientra nel piano di ricostruzione del brand Alfa, che ha un valore commerciale ancora inespresso grazie anche ad una notorietà in molti paesi del mondo. Quanto profonda sarà la cooperazione fra gli ingegneri italiani e quelli del team svizzero Sauber non è ancora chiaro e ancora non sappiamo quali saranno i due piloti. Certo, Alfa torna nel campionato che aveva contribuito a lanciare i primi due mondiali piloti nel 1950 e nel 1951, vinti da Farina e da Fangio, sono proprio firmati Alfa Romeo. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A chiudere il calcio, prosegue spedita la marcia dell'Italia del calcio femminile in vista dei mondiali del 2019 che si giocheranno in Francia. Nel girone di qualificazione battuto anche il Portogallo per 1-0 con gol dell'attaccante del Brescia Daniela Sabatino. 4 partite vinte su 4 giocate, le azzurre dominano il girone con 12 punti, seguite dal Belgio a 9. C'è stata qualche polemica sulla Rai, alla quale da più parti si era richiesto di trasmettere la partita, andata invece in onda sulla pagina Facebook della FIGC. Forza ragazze. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo subito dopo. Iniziamo il nostro giro d'Italia che partirà da Taranto. Andremo a sentire il sindaco di Taranto e il ministro dell'ambiente Galletti su questa vicenda di Ilva, sulla quale si sta accendendo uno scontro tra gli enti locali e l'esecutivo, come vi abbiamo detto in apertura. Andremo a Como, dove c'è stata una sorta di blitz di alcuni skinhead all'interno di un centro che si occupa di accoglienza di migranti, per fortuna senza violenze. E poi una vicenda che forse avrete sentito raccontare in queste mattine dal nostro Luca Telese in rassegna stampa, e non solo in rassegna stampa, con le telefonate che sono arrivate dagli ascoltatori. Questo pasticcio che c'è stato all'INPS, che ha inviato, pare, 200.000 lettere richiamando le persone che in passato hanno avuto colf, badanti, babysitter, cose di questo genere, a pagare i contributi arretrati di persone che però ormai erano già state licenziate. Cartelle che arrivano fino ai 12.000 euro e le associazioni che se ne occupano che hanno le mani nei capelli. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, e sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp e pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati di Ilva e ci torneremo tra un attimo, della Corea che lancia un nuovo missile e dice siamo una potenza nucleare, del nuovo record, o meglio del record ulteriore per Bitcoin che sfonda quota $10.000, e dell'Alfa Romeo che torna alle corse di Formula 1.

per un mese abbiamo recepito gran parte delle osservazioni che ci sono arrivate. Abbiamo fatto un procedimento trasparente. Sinceramente faccio fatica. Sì, loro sostengono che ci sono troppe proroghe per quanto riguarda le prescrizioni ambientali, almeno questo dice Emiliano. Ma non sono proroghe, gli interventi vanno fatti, gli interventi per farli richiedono tempo, cioè se io faccio la copertura di un parco non posso pensare di dare un tempo a chi lo deve fare più breve di quello che ci vuole materialmente a farlo, perché sarebbe un'ipocrisia, cioè io non voglio entrare nella mentalità do un termine per poi prorogarlo ancora. Questi sono termini reali, compatibili con le risorse a disposizione. E per questo io lo reputo un buon piano ambientale. E poi ti voglio dire un'altra cosa con molta responsabilità. Non esiste un piano B, eh? Non esiste un piano B. Quindi attenzione a far saltare la trattativa che abbiamo in corso. Se la Regione Puglia e il Comune di Taranto dovessero ottenere ragione dal TAR, il rischio quindi è che salti tutto. Io mi auguro proprio di no, ma il rischio c'è. Così dunque anche il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che abbiamo raggiunto poco fa. Dunque da Taranto ci spostiamo, il nostro giro d'Italia ci porta a Como. Forse possiamo sentire un passaggio di audio per capire dove andiamo e di che cosa parliamo. ...dei diritti dei lavoratori ed invece appoggiano una logica schiavista causando, d'amore d'accordo con i loro padroni, una spietata gara al ribasso. Soloni dell'immigrazionismo ad ogni costo, incapaci di vedere che la loro logica malata sacrifica i popoli di tutto il mondo. E vabbè, è l'audio di un proclama, l'audio di un proclama, una quindicina di nazi skin del Veneto, fronte skinhead, hanno fatto irruzione in una sala al primo piano del chiostrino di Sant'Eufemia mentre era in corso una riunione di Como Senza Frontiere, che è una rete che unisce decine di associazioni a sostegno dei migranti. Un blitz simile si era verificato tra l'altro davanti alla Caritas di Como. Siamo con Anna Maria Francescato, che è portavoce di Como Senza Frontiere. Francescato, buonasera, benvenuta, anzi buongiorno, benvenuta. Buonasera, buongiorno. Sì, sì, mettiamola come vogliamo, sono le 13.23, quindi tecnicamente potrebbe essere buonasera, però insomma ci siamo. Allora, com'è andata questa cosa? Sono entrati dentro, però è stata una cosa dal video che gira anche abbastanza tranquilla. Sono entrati, hanno letto il proclama, se la sono presa come al solito col mondialismo, l'ultraliberismo, queste cose qua, dopodiché se ne sono andati, no? Sì, esatto, cioè diciamo che sono entrati in un posto privato senza bussare, hanno approfittato del fatto che la porta non era chiusa a chiave e hanno salito le scale e noi sentendo dei rumori, pensando fossero in ritardo la nostra riunione, abbiamo aperto e ce li siamo trovati lì. E? Niente, appunto sono entrati senza dire niente, hanno circondato e distribuendoci dei volantini contenenti il testo che poi hanno letto. E senta, come va il clima per le associazioni che seguono il tema dei migranti là a Como? Perché appunto, come dicevamo, c'è stato un blitz anche davanti alla sede della Caritas nei giorni scorsi, non è un fatto isolato questo. E, ci siamo sorprentati, non ce lo aspettavamo. E poi appunto loro è stato proprio un gesto intimidatorio, aggressivo. No. Sì, ma il clima complessivo che si respira in questo periodo com'è? Ma adesso c'è un po' di tensione indipendentemente da loro, perché a Como ci sono una sessantina di migranti che dormono per strada e tutti stanno cercando di trovare un po' di prendere sulle istituzioni per trovare loro un posto. E il tema è sempre quello, gente che cerca di andare in Svizzera in qualche modo, ma le frontiere sono chiuse e quindi poi no. Ma in realtà no, nel senso che la maggior parte delle persone che vuole, che sono molto poche, che vuole andare in Svizzera ci riesce con i passatori, perché le frontiere non sono così chiuse come in passato. Il fatto è che queste persone hanno perso il diritto all'accoglienza e quindi non possono essere accolti dallo Stato. E quindi... Però sono tutte persone legali con diritto di stare in Italia e quindi sono costrette a dormire per strada. Perché sono persone che hanno lasciato i centri nei quali si trovavano per più di 3 giorni. O per volontà loro, o perché ottenuto il permesso di soggiorno sono stati allontanati, o perché raggiunta la maggiore età sono stati allontanati. La ringrazio, grazie per questo racconto. Anna Maria Francescato, portavoce di Como Senza Frontiere. Ci spostiamo e ritorniamo in Puglia dopo essere stati a Taranto per parlare dell'Ilva, ma per andare a Bari. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che in un quartiere a rischio della città, un quartiere difficile della città, che è il quartiere di Libertà, ci sono dei parroci, un parroco in particolare che ha detto: sapete che c'è? Io la messa di mezzanotte il 24 di dicembre non la faccio più. La messa di mezzanotte la faccio in realtà alle 18:30 perché è troppo pericoloso, c'è una specie di coprifuoco. Antonio De Caro, sindaco di Bari, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Che cosa succede? È un quartiere complicato, però non credo che anche alla luce delle dichiarazioni di questi giorni, anche del Vescovo, l'anticipazione sia legata esclusivamente alla situazione di difficoltà del quartiere, credo sia legata più alle abitudini dei cittadini di quel quartiere che preferiscono, diciamo, quella sera magari partecipare al cenone, quindi non andare a messa, e hanno pensato di anticiparla alle 18:30 su richiesta del vescovo. Quindi si passa alle 18. Altri parroci che negli altri quartieri hanno detto: io faccio la messa anche se c'è solo una persona. Poi è chiaro che in quel quartiere abbiamo delle difficoltà che stiamo affrontando proprio con i parroci. Sono i parroci proprio in quella chiesa, ho incontrato i parroci del quartiere per chiedere al loro aiuto a costruire insieme una serie di relazioni, facendo attività, realizzando spazi per la socializzazione grazie ai fondi che abbiamo ottenuto dal bando delle periferie del governo, e gli ho mostrato alcune attività che stiamo facendo con le associazioni, in particolare ce ne sono 13 impegnate sul territorio, che sono a mano anche alle parrocchie, che sono secondo me un corpo intermedio importante, riescono a fare comunità e possono contribuire a far rialzare la testa a quel quartiere, che è un quartiere difficile, sì, dove sono presenti, diciamo, due clan criminali abbastanza strutturati, ecco, diciamo. Sì. Dal bando periferie, quanti soldi riuscite a mettere in campo per il quartiere di Libertà? Noi abbiamo ottenuto 40 milioni di euro per tutta l'area metropolitana, 17 per il comune di Bari, la maggior parte sono destinati a quel quartiere che non è una periferia fisica, il quartiere di Libertà, nel senso che non è un quartiere lontano come l'altro quartiere finanziato che prende il nome di quartiere San Paolo, che è distante 12 chilometri dal centro cittadino. Il quartiere più vicino al centro cittadino, ma è quello che ha le condizioni di degrado e di disagio sociale ed economico più forti. Lì c'è il maggior numero di persone in arresti domiciliari, il maggior numero di bambini affidati ai servizi sociali dal Tribunale dei Minori, ma ci sono anche scintille che ci fanno, diciamo, pensare con fiducia al futuro. C'è il maggior numero di giovani coppie che si insediano, si sposano e vanno a vivere lì. C'è il maggior tasso di natalità, che sono elementi che vanno valorizzati, motivo per il quale abbiamo concentrato investimenti sia per la realizzazione degli spazi di socializzazione. Abbiamo iniziato con la pedonalizzazione di alcune piazze, la realizzazione dei playground, giardini, un parco molto grande, ma anche con attività di sostegno economico alle associazioni, alle parrocchie che fanno attività di carattere culturale e sociale aprendosi al quartiere, andando ad animare le piazze che stiamo realizzando. Io la ringrazio, grazie Sindaco De Caro per questo intervento, le auguro buona giornata, buon lavoro. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, e poi appunto questa famosa vicenda dell'INPS. Io non so a quanti di voi sia successo di ricevere, se avete avuto per esempio una badante per un parente anziano oppure una persona che veniva a fare le pulizie a casa vostra, di vedere una richiesta di contributi arretrati, contributi che non sono stati versati magari perché questa persona non lavora più per voi, si è dimessa oppure è stata licenziata, c'è stato, non si capisce bene se è un errore o un tentativo di incassare, però stanno arrivando richieste che arrivano fino a 10-12 mila euro, 6 mila euro per appunto contributi arretrati che in realtà non sono dovuti e riguardano circa 200 mila persone. A tra poco. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, e i nostri titoli sono: sull'Ilva, lo scontro tra governo e Regione Puglia dopo il ricorso al TAR, e Calenda congela il negoziato nell'attesa. La Corea lancia un nuovo missile, dice: siamo una potenza nucleare, Trump, ce ne occuperemo. Ancora un record per Bitcoin che sfonda quota 10.000 dollari, più 10% in sole 24 ore. Alfa Romeo torna alle corse di Formula 1, scriverà un nuovo capitolo nella leggenda dello sport, dice Marchionne. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ma basta adesso, basta, lo dico a Sergio, l'amico tassista che ci ascolta quotidianamente e ci scrive in continuazione. Ma insomma, non abbiamo approfondito la notizia che c'è stato un litigio di strada tra un tassista e un culturista e il culturista gli ha staccato un orecchio con un morso? Ragazzi, se vi sembra degna di approfondire, io capisco che per un tassista sia importante questa storia, però... mettiamo le cose, no, nel giusto ordine. È una notizia di cronaca, è un litigio di strada finito male. Se non fosse stato un tassista, fosse stata una persona normale, sarebbe stata sostanzialmente la stessa cosa. Era un litigio per motivi di viabilità, molto semplicemente, e c'è stato questo litigio. Un pazzo ha deciso di aggredire il tassista, gli ha staccato l'orecchio con un morso, gli ha tirato un pugno. Era un culturista, è già andato a processo ed aveva già dei precedenti per lesioni. Punto e basta. La storia direi che possiamo esaurirla qua. Riguarda invece molte persone, 200.000 secondo alcune stime, questa ondata di lettere arrivate dall'INPS ai persone che hanno avuto alle loro dipendenze colf, badanti, a lungo, corto orario, poco importa, con le quali l'INPS sta chiedendo dei contributi arretrati per persone per gli anni nei quali queste persone non lavoravano più, appunto, queste colf o badanti per i precedenti datori di lavoro. Botte da 10-12 mila euro. Teresa, benvenuto, segretario nazionale di Assin.Colf. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. Avete un quadro più o meno di quante persone, almeno delle persone sono a voi associate? Ricordiamo, Assin.Colf raccoglie i datori di lavoro. Avete un'idea di quante richieste di questo tipo stanno arrivando? Il numero dei 214.000 cartelle inviate è reale, è un dato pubblico, è un dato di invio avvenuto dall'INPS. I nostri soci, per fortuna, non sono tanti, non sono in questo numero che hanno ricevuto le cartelle. E sono, se mi permette, probabilmente anche i più fortunati, perché sì, voi avete in mano il materiale. Perfetto. Che permette di contestare direttamente. Perfetto. All'INPS, no? Sono quelli più tutelati perché abbiamo una banca dati che raccoglie, sì, tutta la, diciamo, la vita del loro rapporto di lavoro, tutto il periodo in cui loro hanno avuto alle dipendenze un domestico, badante, colf, babysitter, e quindi sono in grado di dimostrare nuovamente di aver compiuto tutti gli atti di comunicazione per una cessazione nei termini e di avere versato i contributi anche questi, sì, termini. Sì. Ma è scattato di fatto, mi sembra di capire, benvenuto, per un tentativo di incassare prima della fine dell'anno, perché dall'inizio dell'anno prossimo varrà la regola secondo la quale non si possono richiedere documenti più indietro di 5 anni, ho capito bene? No. Io metto, diciamo, come antefatto la buona fede da parte dell'istituto fare questo tipo, sì, di attività. La malafede ce la metto, non nel senso che ce la metto io, però no, diciamo, metto io la pulce nell'orecchio degli ascoltatori. Nel senso che questa è una prassi che l'INPS ha di inviare questo tipo di, chiamiamole cartelle, ma si chiamano avviso di accertamento, con una cadenza semestrale o annuale, e lo fa con la logica di verificare quante persone non sono in regola con i versamenti contributivi, e si chiamano in gergo INPS silenti, cioè non danno comunicazione dei versamenti, e regolarizzare, diciamo, e interrompere anche la prescrizione, perché naturalmente l'INPS può chiedere i contributi, la regolarità contributiva, solo sugli ultimi 5 anni. Sì. Quindi lo fa con questa periodicità proprio per mettersi in pari con gli ultimi 5 anni, ma fra 6 mesi invierà nuovamente questa richiesta ad altre persone o magari anche alle stesse. Ma come mai è partita quest'ondata proprio adesso? Guardi, il problema è che probabilmente per qualche errore che saprei individuare con certezza, se non quello di presumere che possano essere, appunto, stati pescati quei rapporti di lavoro quindi di molti anni fa, diciamo anni 2005, 2006, 2007, in cui le comunicazioni di cessazione che le famiglie dovevano fare venivano inviate non all'INPS ma alla direzione provinciale del lavoro o sedi territoriali, centri per l'impiego, pertanto diciamo, e lo facevano in maniera cartacea, quindi pensi un attimo appunto che in questa comunicazione cartacea doveva essere trasferita all'INPS, cartacea in maniera telematica, non lo so, nel mentre probabilmente qualcosa si è perso. Si è perso per strada. Mi sembra che l'INPS su questo abbia dato dei chiarimenti, si può anche procedere per autocertificazione, no? Ma loro dicono appunto, siccome stiamo parlando, allora naturalmente se queste loro non hanno la comunicazione di cessazione, risultano aperti questi rapporti e quindi i datori sono non in regola con il versamento contributivo e quindi loro fanno questa richiesta. Ora la famiglia che riceve una lettera di questo genere nel panico più assoluto verifica se ha presso di sé ancora della documentazione che può comprovare questa cessazione. Mediamente non ce l'ha. Mediamente non ce l'ha, a quel punto in autocertificazione dichiara appunto di aver interrotto nel mese di maggio, giugno 2006, 2005, eccetera, quindi assumendosi la responsabilità. L'INPS dovrebbe nella più parte dei casi accettare questa comunicazione e questa è già una buona notizia. Solleva il panico generale che soprattutto in questo frangente su Milano si è rilevato, perché anche questa come diciamo particolarità è stata invasa prima la città di Milano di queste comunicazioni, adesso arrivano anche su Roma e arriveranno anche nelle altre città perché il numero appunto è rappresentativo del territorio. La ringrazio, grazie a Teresa. Benvenuto, segretaria nazionale di Assindat Golf, per essere stata con noi. E Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.